Thank you so much, Pastor. Grazie, Pastore. My name is Odd Live. Il mio nome è Odd Live. Very good. You managed very fine. Bene, bene, ho pronunciato bene. Oh, we are so thankful to be here with all of you guys today. Noi siamo così grati di poter essere qui con voi oggi. And it's such a privilege to be here and to be in this church today. Ed è un privilegio essere qui ed essere in questa chiesa questa mattina. First, I just want to say thank you so much, Pastor Mirko. E prima di tutto voglio ringraziare. Let's give him a great hand. Vogliamo dare un applauso a lui di ringraziamento. And before we start, you know, I pray to the Lord. Lord, give me, I need an encouragement for the pastor as well, especially. E prima di incominciare stavo pregando e stavo chiedendo al Signore, dammi una parola di incoraggiamento per il nostro pastore. And by the way, a little tip for the whole church. Usually when someone asks the pastor, Pastor, can I please speak to you? Un suggerimento per la chiesa, quando qualcuno chiede al pastore, usually that's bad, right? That's like, oh, chiede, chiede di parlare al pastore, e si tratta di un qualcosa di non troppo piacevole. But maybe you can do like, hey pastor, I really need to speak to you. Maybe you can say like this, Pastor Mirko, I really need to speak to you. Ma forse potrei dire, pastore, io ho davvero bisogno di parlare con te. And then you say, Pastor, you know what? You're so great. E puoi dire, pastore, sai cosa? Tu sei veramente grandioso. How do you do it? Come fai ad essere What's così? Your secret, pastor? Qual è il tuo segreto? Like, and then you can list up points that you see in the pastor why he's so great. E poi puoi fargli un elenco di tutte le cose belle che vedi su di lui. Just a little inside tip for you. You can do that for your pastor. Questo è giusto un suggerimento per ognuno Amen. Di noi. Lo possiamo fare per Amen. Il nostro pastore. But you Amen. Know, I pray that the Lord will give me a special greeting to you. Ma quindi stavo pregando e stavo chiedendo al Signore un incoraggiamento specifico per te. And Revelation chapter 3 verse 7 and 8. E in Apocalisse al capitolo 3 al versetto 7 e 8. I have put an open door in front of you which no one can shut. Io pongo davanti a te Amen. Una porta aperta che nessuno potrà chiudere. The Lord has put an open door in front of you. Il Signore ti ha posto una porta dinanzi. And no one can shut it. E questa è aperta e nessuno potrà chiuderla. And I believe that is a word for everyone that is here as well, that the Lord has put an open door in front of you which no one can shut. E credo che questa sia una parola che ha valenza per ognuno di noi, In che Jesus Dio ci ha messo name. Una porta aperta Hallelujah. Che nessuno potrà chiudere. Hallelujah. Amen. Oh, Amen. Thank you Jesus. I'm so happy that I get to share a few words with you this morning. Sono così contento di poter condividere un messaggio con voi questa mattina. So I'm Norwegian. Quindi sono norvegese. And Norwegians are very yes, there are some. Who's Norwegian here? Raise Chi your hand. Chi è norvegese qui? Yes. Abbiamo una bella presenza. We are so happy to be in Italy. Noi siamo così felici di essere qui in Italia. A couple of weeks before we left there, it was snowing in Norway. Qualche settimana prima della nostra partenza stava nevicando in Norvegia. And if you don't know this, this weather like this, oh, this is summer for us. E questo tempo, questo clima per noi Almost. È estate praticamente. At least for me, quasi. I come from Bergen. Io vengo da una città che si chiama Bergen. That's a city in Norway that is known for one thing. E quella è una città, questa è una città conosciuta in Norvegia per una ragione. It's rain. C'è pioggia. We have 250 days of rain every year. 250 giorni all'anno piove. So I feel a bit like home today. E quindi ci sentiamo un po' a casa oggi. And we are also known for being the Italians of Norway. Ma anche siamo conosciuti per essere gli italiani della Norvegia. Because we are usually very loud and very positive perché, and very happy. Perché siamo ci piace far rumore, siamo sempre positivi. And I was wondering about this one thing about why because Norwegians are not known for being so loud. Perché e mi stavo chiedendo, in realtà sappiamo che i norvegesi non sono conosciuti per coloro a cui piace fare confusione e rumore. If you really want some peace and quiet in life, se hai bisogno nella tua vita di un po' di pace, the best place to be is in the public transportation in rush hour in Norway. Il posto per te è essere in qualche treno, yeah. in qualche pullman in Norvegia all'ora yeah. di punta. Yeah, it's true. You go into a bus in rush hour, completely packed in Oslo. All'ora di punta puoi andare su un autobus in in Norvegia. Not in Bergen, but in Oslo. Not in Bergen, ma in Oslo. But you go in Oslo, and everyone is on their phones. E tutti quanti sono con il cellulare in mano. And the worst thing that can happen to a Norwegian, è la peggiore cosa che può succedere a un norvegese, is eye contact with someone else. È avere un contatto visivo con qualcun altro. No social interaction. Non c'è un'interazione sociale. Oh, and then you come to blessed Italy. Ma poi Hallelujah. Arrivi in Italia. And then I go into a cafe in the morning. E vado in un bar la mattina. And there is life. E c'è vita. Oh, da, da, da, da. Oh, da, da, wonderful. And there it's life, it's joy. C'è vita, c'è gioia. Oh, I love it. E mi piace tantissimo. And I was wondering, why is this so? E quindi mi chiedevo, ma come mai c'è questa differenza? Why are Norwegians so different to Italians? Perché, per esempio, i norvegesi sono così diversi dagli italiani? And as I was pondering about this, e mentre ci stavo pensando, I saw a mother with her child in Italy. Ho visto una mamma che aveva il suo bimbo qui in Italia. Is there any mothers in this place? C'è qualche mamma qui? Any mothers in this place? Raise your hand. Wave to me. Alzate la mano se siete mamme. Isn't it Mother's Day today in Italy? È il giorno della festa della mamma qui in Italia. I think we have to have all the mothers to stand up, please. Allora tutte le mamme magari si possono alzare. If you are a mother, please stand up. Let's give them a hand. E vi vogliamo celebrare. Yes. Today it's your day and everyone else we have to serve the mothers today, okay? Oggi è il vostro giorno e tutti quanti altri noi dobbiamo servire le nostre mamme oggi. So but I was looking at this mother with her child. E quindi ritornando alla storia, stavo osservando questa mamma con questo bimbo. And the child started to scream. E questo bimbo ha incominciato a urlare, a piangere. And normally in Norway this is what happens. E normalmente in Norvegia questo è quello che accadrebbe. It's okay. It's okay. Bene, and the mothers go away. Oh, shh, e quindi la mamma lo porterebbe in un posto più appartato. Va tutto a posto. Okay, that's usually what happens in Norway. Questo è quello che succede in Norvegia. But I was looking at this Italian mother. Ma invece stavo osservando questa mamma italiana. And this is what happened. E questo è quello che è successo. First. Questo era il bambino. And then the mother goes like this. E la mamma dice. Oh, così, così, così. Fantastic, wonderful. And I was, whoa, this is different. E davanti a questo ho pensato, mo, è veramente diverso. And then there was another person that also came, an aunt probably or something. This wonderful. E poi probabilmente si è avvicinata a quella che magari forse era la zia e ha incominciato a fare confusione anche lei. And the baby was shocked. E il bambino è rimasto così scioccato. So, and maybe that has something to do with it. I don't know. Forse la differenza dipende proprio da questo. Can I get a witness? Is there anyone that recognizes this? Qualcuno riconosce questo modo di fare? Am I completely wrong? Am I completely wrong? Non ho sbagliato. Okay, you can come to me afterwards and tell me if I'm completely wrong. Se pensi che non ho ragione, puoi venire da me e puoi spiegarmi diversamente. Oh, but I love Italy. Ma il punto è che amo l'Italia. And I feel like I have become Italian. E mi sento come se sono diventato italiano. You know why I think I'm Italian? Sapete perché penso di essere italiano? Because last time I had some Italian visiting my home. Perché l'ultima volta che degli italiani hanno visitato casa mia. They brought me soppressata. Mi hanno portato la soppressata. That's how you know you're that you were Italian. E questo è come sai che adesso sei un italiano al 100%. When Italians bring you homemade sausage from Italy. Quando degli italiani ti portano questi cibi tipici come la soppressata. Good. So I feel like I'm at home right now. Quindi questo per dirvi che mi sento proprio a casa oggi. But I also have a word that I want to share with you. Ma anche ho un messaggio che voglio condividere and con I hope voi. It's going to be a blessing to you this morning. E spero che questo possa essere una benedizione per voi. If you go to Exodus chapter 31, se andiamo in Esodo al capitolo 31, Exodus chapter 31, Esodo capitolo 31. There we meet one of the heroes of the Bible. Ed è qui che incontriamo uno degli eroi della Bibbia. His name is Bezalel. Il suo nome è Bezalel. And Bezalel is a very special guy. E lui è un uomo molto speciale. Because The Bible says that he was filled with the Holy Spirit. Perché la Bibbia proprio dice che lui era riempito, era pieno dello Spirito Santo. He was filled with the Holy Spirit. Lui era pieno dello Spirito Santo. And he was filled with the Holy Spirit and wisdom and understanding and knowledge. E quindi aveva lo Spirito Santo e aveva conoscenza e saggezza. For a purpose. Per uno scopo specifico. The Holy Spirit filled him so that he could create beautiful art. Lo Spirito Santo lo ha riempito affinché lui potesse creare dei cuori meravigliosi. That he could make beautiful things that would carry the presence of God. Affinché potesse creare delle opere d'arte, scusate, meravigliose per la gloria di Dio. The Holy Spirit filled him so that he could make things that would carry God's presence. Lo Spirito Santo lo ha riempito così che lui potesse creare delle opere meravigliose per trasportare, per portare la presenza di Dio. You know, the language of the Holy Spirit is dreams and visions. Sapete, il linguaggio dello Spirito Santo è caratterizzato da visioni e da sogni. And when the Holy Spirit comes, e quando lo Spirito Santo viene, he speaks to you in dreams and in visions. Lui ti parla attraverso visioni and he fills, e attraverso sogni. He fills you with thoughts and dreams and visions. E ti riempie di visioni, di sogni. So that you can be a carrier of God's presence. Così che tu possa essere colui che porta, che trasporta la presenza di Dio. Bezalel went on to be the mastermind behind the Ark of the Covenant, or rather God is the mastermind, but that he could make what he had seen from the Lord. Questo uomo Bezalel era colui che ha costruito, che ha lavorato all'arca della presenza di Dio. Chiaramente Dio è stato l'autore, ma lui è colui che è stato scelto per farla. And when you read the whole Old Testament in the Bible, e quindi quando leggi il Vecchio Testamento, you see that the people of Israel, they were carrying the Ark of Covenant that Bezalel had made all over the place. Lo vediamo che il popolo di Dio trasportava l'arca del patto che rappresentava la presenza di Dio. He had made something where God had decided, I want my presence to reside in this very place, in this thing. E quindi questo uomo aveva creato questo oggetto che Dio aveva scelto come luogo dove avrebbe sarebbe stato con la sua presenza. And the presence of God would be in that and would be in that place. E quindi la presenza di Dio sarebbe stata proprio nell'arca del patto. And people would come from all over the world to be at this the place of the tabernacle and later on the temple. E vediamo persone che venivano da ogni parte del mondo per essere prima nel tabernacolo, poi nel tempio. Because they knew that the presence of God is there. Perché sapevano che la presenza di Dio era lì. The presence of God is in that place. Sapevano la presenza di Dio è in quel luogo. And then what happens? E quindi poi cosa succede? Jesus died on the cross. Gesù muore su quella croce. And that veil that was separating every single person from the presence of God. E quel velo che separava ogni singola persona dalla presenza di Dio. That was torn in two up from the top to the bottom. Quel velo è stato strappato via, squarciato via dall'alto verso il basso. Because it's not anymore just the presence of God in a particular place. Perché chiaramente adesso la presenza di Dio non è in un posto specifico. We live in a new time where God wants to have his presence in you. Ma viviamo in un'epoca dove la presenza di Dio, dove Dio vuole risiedere in te. You are a beautiful piece of art created by God. E quindi tu sei un capolavoro, un'opera d'arte dove Dio vuole risiedere. More than just a Mona Lisa. Più della Mona Lisa. More than just some beautiful artworks, you are unique. Più di qualsiasi opera d'arte che conosciamo, perché tu sei unico. You're made in God's image. Tu sei stato creato ad immagine di Dio. You're made in God's likeness. Tu sei stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. He loves you. E lui ti ama. And you are that masterpiece. E quindi tu sei quel capolavoro. From the master designer. Fatto dal dal creatore più alto. His name is Jesus. E il suo nome è Gesù. And he wants to fill not only a box. E lui vuole adesso riempire con la sua presenza non una scatola come era l'arca. With his presence, he wants to fill you with his presence. Ma lui vuole riempire te con la sua presenza. And the time where it was just a box that was being carried around with the presence of God is over. Nel vecchio il tempo dove la presenza di Dio risiedeva solo in un'arca, in una scatola, è finito. Now is the time where you are that masterpiece of God that will carry God's presence everywhere you go. Ma adesso siamo in quel tempo dove tu sei colui che trasporta e che porta la presenza di Dio. Hallelujah. God is calling us for fellowship. Dio ci chiama alla comunione. 1 Corinthians 1:9 it says that we are called into fellowship with God. 1 Corinzi 1:9 dice che noi siamo stati chiamati ad essere in comunione con Dio. And the one that he has sent, Jesus Christ. Colui che ha mandato Cristo Gesù. God wants to have fellowship with you. Dio vuole avere una comunione, un rapporto con te. The real thing. Una cosa vera. Hallelujah. Not just a couple of special guys, Moses and those guys that were just going in and out and being in the presence. God wants to have fellowship with you. E questo non è più un privilegio di un paio di persone come per esempio lo era per Mosè. Adesso questa è una condizione che accomuna tutti quanti noi. And when Jesus was walking around on this planet, e quando Gesù camminava su questa terra, the disciples, they loved it. I discepoli amavano questo. They saw Jesus, he healed the sick. Hanno visto Gesù che guariva i malati. They saw Jesus as he threw out the demons. Hanno visto Gesù che cacciava via demoni. They're like, wow, that's awesome, Jesus. E loro erano, ma che bello, questo è fantastico, Gesù. And occasionally Jesus would bring in the disciples as well. Come on, guys, now you go for it as well. E di tanto in tanto Gesù portava i suoi discepoli mentre guariva e faceva queste opere miracolose. And we see that sometimes they made it and they were happy and other times they were a bit shaky. E vediamo i discepoli che qualche volta ci riuscivano e altre volte erano un po' scossi dalla situazione. But they were okay because Jesus was there, so if they failed they just okay, Jesus is here, he will just take it from us now, okay. Ma erano a posto con questo perché anche quando non ci riuscivano sapevano che erano coperti da Gesù. Non ci sono riuscito, va bene, però non fa niente, c'è Gesù. But then Jesus started to speak to them and say many strange things that they didn't understand. Ma ad un certo punto Gesù incomincia a parlare ai suoi discepoli descrivendo delle cose che erano anche un po' incomprensibili. John 14, he says, you will do greater works than these. In Giovanni 14 Gesù dice voi farete delle opere maggiori di quelle che avete visto fare a me. And they didn't quite get it, but they were like yes, yes, amen, Jesus, that's good stuff, yeah. E loro non è che avessero capito così bene, però insomma hanno accettato, va bene Gesù, ok, se lo dici tu. And then Jesus goes on to and he continues and that these signs will follow those who believe. E Gesù continua dicendo e questi sono i segni che accompagneranno coloro che credono. In my name. Coloro che credono nel mio nome. They will drive out demons. Nel mio nome cacceranno demoni. They will lay hands on the sick and they will be healed. Imporranno le mani sui malati e loro saranno guariti. And the disciples are still like, yeah, hey, that's good, Jesus. You know, you are here, so it's going to be fine. That's good. E i discepoli continuano a dire, ok, va bene, Gesù, se lo dici tu, l'importante è che tu sei qui con noi. Jesus, he's awesome. Gesù è fantastico. And then Jesus leaves. Ma poi Gesù va, si unisce al Padre, va and al they padre. All look up. E loro guardano in alto. And they're wondering now what just happened now? E i discepoli si chiedono ok, e adesso? And then some angels show up. E sappiamo la storia degli angeli si sono sono apparsi, si sono presentati. And they go like, "Hey, what are you looking at?" E loro e gli angeli chiedono ai discepoli scusate dove state guardando. I mean it's kind of obvious Jesus just went up, okay, he just, you know, up in the cloud, it's quite obvious. E dicono scusa non è ovvio che Gesù non è più qui, è andato ormai al Padre. And Jesus, then he started to remember, hey wait a minute, Jesus said some more things to us. E quindi loro poi ad un certo punto i discepoli sono ricordati dicendo ah sì Gesù ci ha detto qualcosa. What more did Jesus say to us? What more did Jesus say to us? Che cosa ci ha detto in più? He said something, I think he said something about that he will go away. Oh yeah, he said something that he will go away, that's true. E immaginiamoci i discepoli che dicono, ah sì, è vero, ci ha detto, ha detto che sarebbe andato al Padre. Yeah, he will go away and he will send us the Holy Spirit. Sì, sì, yes, lui that's ha detto true. Che sarebbe andato al Padre e ci avrebbe mandato, ah sì sì, lo Spirito Santo. Yes, he said something about that. He said he would send the Holy Spirit. Lui ha detto che avrebbe mandato lo Spirito Santo. Yes, and he will be with us. E che lui sarà con noi. What more did Jesus say? Che cosa ha detto in più Gesù? He said that. What was it he said just before he went? Cos'è che ha detto prima proprio di andarsene? He said this. He said that we will receive power. Ah sì sì, ha detto. Yes. Ha detto noi riceveremo as potenza. The Holy Spirit comes upon us. Quando lo Spirito Santo scenderà su di noi. And we shall be his witnesses. E noi saremo i suoi testimoni. What more was it that he said? Cos'è altro che ha detto? He said that we should wait in Jerusalem until it happens. Ha detto che noi dobbiamo aspettare a Gerusalemme fino a quando tutto questo so non succede. So the disciples they gather in the upper room in the prayer room in Jerusalem. E quindi a Gerusalemme i discepoli si riuniscono nella stanza di sopra. And if you've been reading the Bible, you know in Acts 2 the Holy Spirit fell upon that entire place. E conosciamo la storia descritta in Atti 2, lì lo Spirito Santo discende per la prima volta sui discepoli. And every single believer that was there was filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit came upon them, flames of tongues of fire set upon their heads. E vediamo che ogni singola persona che credeva fu riempita dallo Spirito Santo che è sceso sotto forma di lingue di fuoco. And they were all filled with the Holy Spirit and they went out and started to witness powerfully. E quindi pieni dello Spirito Santo poi sono andati fuori e hanno incominciato a predicare. You know, it's so easy to think that the Holy Spirit is just like to give you goosebumps in worship. È così facile pensare che lo Spirito Santo ti dà soltanto la pelle d'oca durante il momento di lode e adorazione. And people go to one famous preacher and minister after the other and asking, please lay hands on me, lay hands on me. Ed è per questo che vediamo persone che vanno da un predicatore all'altro e chiedono per piacere, imponi le mani su di me, prega su di me. I want to experience God in a special way. Perché voglio sperimentare Dio in un modo speciale. And that is wonderful to experience God in a powerful way. Ed è chiaro, è meraviglioso sperimentare Dio in un modo potente. And sometimes we really, really need that. E qualche volta davvero ne abbiamo bisogno. But do you know why we are to be carriers of God's presence? Ma sapete perché noi dobbiamo essere coloro che trasportano, che portano la presenza di Dio? Why do you get the Holy Spirit and power and fire from heaven? Perché? Perché riceviamo lo Spirito Santo e potenza dal cielo? Is it just so that you can sing really well? È solo affinché possiamo cantare molto bene? Is so you have your boldness to lift up your hand in worship from this to this? Così che possiamo essere coraggiosi abbastanza da alzare le nostre mani in adorazione da qui a qui? No. You receive the Holy Spirit. You receive him to be a witness. Certamente for Jesus. No. Noi riceviamo lo Spirito Santo affinché possiamo essere dei testimoni per Gesù. That's the reason why you get the Holy Spirit. Questa è la ragione per la quale noi riceviamo lo Spirito Santo. In the New Testament, the Bible says that we are priests. La Bibbia ci dice che noi siamo sacerdoti. What are priests doing? Che cosa fa un sacerdote? We're connecting people to God. Il sacerdote connette le persone a Dio. We're just helping people to get to know Jesus. Semplicemente noi aiutiamo le persone a conoscere Gesù. We just do everything that we can. Have you heard about Jesus? E noi facciamo tutto quello che facciamo che have you, possiamo have per Have you questo. Understood what Jesus have done for you, my friend? E chiediamo, ma tu conosci Gesù? Ma tu sai quello che Gesù può fare? And sometimes you need some extra boost from the Holy Spirit to be able to crack open some shut down hearts. E qualche volta per condividere Gesù abbiamo bisogno di una spinta particolare dallo Spirito Santo. And the gifts of the Holy Spirit is available to you. E il dono dello Spirito Santo è disponibile, è per tutti. All of them is available to you because you have the one that gives all of the gifts, the Holy Spirit. Tutti i doni dello Spirito Santo sono per noi, disponibili per noi, perché noi abbiamo colui che dispensa questi doni. genitori. And sometimes when you need to hammer, then you use a hammer. E quindi qualche volta quando hai bisogno di del martello, allora usi il martello. Sometimes when you work with electricity, you need electric some electric tools. Quando stai lavorando con un qualcosa di elettrico, hai bisogno degli strumenti inerenti a questo. It is all available to you so that you can connect people directly with God. Tutto questo è a nostra disposizione con l'obiettivo di connettere le persone a Dio. So when we have experienced salvation, quindi quando noi abbiamo proprio sperimentato la salvezza, when we have experienced that Jesus have come into our lives and changed everything, quando abbiamo sperimentato che Gesù è venuto nella nostra vita e ha cambiato tutto nella nostra vita, then our hearts are burning. Oh, I want for other people as well to experience the same. Allora di conseguenza i nostri cuori dovrebbero essere zelanti e desiderosi di condividere lo stesso con gli altri. They have to know Jesus as well as me. Tutti devono conoscere Gesù proprio come lo conosco io. I want to give them the best. Voglio dar loro il mio meglio. And you know, we have something that is so powerful. E sapete, abbiamo un qualcosa che è veramente molto potente. I remember me and my beautiful wife Deborah, that is sitting right there. Mi ricordo con mia moglie Deborah, mia bellissima moglie Deborah. We were on holiday in Portugal on one occasion. Eravamo in vacanza in Portogallo. And we were walking up the street there in Lisbon. E a Lisbona stavamo semplicemente passeggiando per le strade. And there were some guys that came to me. I don't know if I looked like I want to buy drugs or anything, but at least some guys said like, "Hey, do you want to buy some drugs?" Ora non lo so se sembro qualcuno che insomma vuole comprare della droga, però sulla strada uno spacciatore si è avvicinato perché voleva vendermi della droga. I don't know, but I kind of like those kind of questions. In realtà mi piacciono questo tipo di domande. Because like first of all, it's when you want to tell someone about Jesus, it's great, like I didn't even have to contact him, like he came to me. Perché in quell'occasione non sono dovuto andare neanche io a cercare qualcuno per condividere Gesù. È questo qualcuno che è venuto da me. So then the first part is already dealt with, you know. He's already taking contact. Okay, even though I'm sometimes a bit shaky, it's okay. We have a conversation going, it's easy. Quindi la prima parte dell'incominciare la conversazione, dell'avere una fattispecie di contatto era già fatta perché aveva preso lui iniziativa. And I told him, you know what? E gli ho detto, sai cosa? And I was looking around. E mi stavo guardando attorno. I have something that is so much more powerful than what you have. E gli ho detto, io ho qualcosa che è molto più buono di quello che tu hai. And he was telling me, okay, I'm sorry, this stuff that I have here is not real, but I have something in my shoe, I can get you that. It's going to be more expensive. Okay, hai ragione, questo che ti sto dando non è proprio la roba migliore che ho, però ce ne ho un'altra migliore nello stivale. And I was telling him, no, you don't understand. E gli ho detto no, non hai capito. Because the thing that I have. Perché quello che io ti sto offrendo. It gets you on a high. Ti fa proprio sballare. But then you don't get the low after. Ma dopo non hai non sei di nuovo triste. It gets you on a high and then you get even higher. Questa cosa che ti sto offrendo ti fa andare in alto, ti fa and sballare then it gets you even higher. E poi ancora più in alto. And then it gets you even higher. E ancora più in alto. And one day you're just in heaven, man. E un giorno ti ritrovi in paradiso. Amen. I was going on, it's like, you know what, the stuff that I have, it gives me such a peace on the inside. E continuavo dicendo, sai, questa cosa che io ho mi dà un senso di pace. That is indescribable and such a love. Che non è proprio descrivibile. Sometimes I can't even contain it. È un amore che non posso neanche contenere. And it's possible to even transfer. Ed è anche possibile trasferirlo questo. And if you are ready for it, e se sei pronto, I can transfer some of this stuff to you. Io posso trasportare questa cosa da me a te. What are you on, man? E lui mi dice, ma tu sei proprio drogato in questo momento? It's Jesus. E gli ho detto, Gesù. Oh, it's the power of God. la potenza di Dio. I have the fire of God in my life. Io nella mia vita ho il fuoco di Dio. And right now I'm going to transfer it to you. E in questo momento voglio trasportarlo su di te. Shakaramasake. Hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name, for this man that you meet him right now. Come with your presence in Jesus' name. Hallelujah. Quindi ho incominciato a pregare, a dire: Gesù, su questo uomo, per piacere, sì, in questo uomo, entra nella sua vita. You know, the Holy Spirit, e quindi lo Spirito Santo, can make even a shy Norwegian bold. Può trasformare anche un norvegese così timido in una persona coraggiosa. If the Holy Spirit can do that with a Norwegian, se lo Spirito Santo può fare tutto questo con un norvegese, how much more can he do that with an Italian? Quanto di più può fare con un italiano? Amen. Amen. Hallelujah. You know, in Acts 19, sapete, in Atti 19, Paul the apostle, he meets a couple of disciples. L'apostolo Paolo incontra un paio di discepoli. And he asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you started to believe?" E le ha domandato: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? And they go like, "What?" E loro fanno: che cosa? Holy Spirit, we never heard about that. There was a Holy Spirit even. Lo Spirito Santo? No, noi non sapevamo neanche che esistesse una cosa del genere. And then he goes like, "Oh yeah, but you know, it's Jesus you follow, and I baptize you in the name of Jesus." And then he laid hands on them, and they received the Holy Spirit. E quindi per un certo punto lui impone le mani su di loro, e loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. And instantly they started to speak out in new tongues and to worship God. E istantaneamente queste persone hanno incominciato a parlare in nuove lingue e ad adorare Dio. Personally, I came from a quite traditional church background in Norway. Traditional church background. Vengo da una chiesa molto tradizionale. I was a bit like those disciples. I had not heard so much about the Holy Spirit and the fire of God. E quindi mi posso rivedere in questi discepoli. Conoscevo Dio, ma non conoscevo nulla dello Spirito Santo. But then I started to hear stories like we have seen some of these days. Ma poi ho incominciato ad ascoltare delle storie simili a quelle che abbiamo ascoltato nel corso di questi giorni. People getting healed. Persone che erano guarite. But wasn't that just like in the Bible, like 2,000 years ago? E mi chiedevo, ma questo non succedeva solamente ai tempi della Bibbia 2000 anni fa? And I heard about people that experienced God's supernatural things with God today. Ho incominciato a sentire di persone che potevano sperimentare la potenza dello Spirito Santo oggi. And I was like, wow, is it really possible that I can also experience God more than just going to church on Sunday? E quindi mi sono domandato, ma forse è possibile, sarà possibile sperimentare Dio in una maniera più potente e non solo semplicemente andando in chiesa la domenica? And I started to get hungry for God. E quindi in me è nata ed è cresciuta una fame. It was like a hunger and a thirst that was awoken on the inside. Ero affamato e assetato per avere di più di Dio. And I just thought, I don't want to come to heaven one day and realize that I've just missed out on all the fun. E ho detto, io non voglio andare in paradiso un giorno e rendermi conto che mi sono perso tutto il divertimento. I don't want to come to heaven one day and just realize that I could have like really walked with Jesus every day and I had not done it. Non voglio andare in paradiso e rendermi conto che sulla terra avrei potuto vivere in una maniera potente, camminare accanto a Gesù, e invece non l'ho fatto. And then I started to pray. E quindi ho incominciato a pregare. Lord, I want more of you. Signore, voglio di più di te. I don't know. I'm not that I'm not happy with you, but I want more. Non che non sono contento, ma voglio di più. Lord, I don't even know what I'm praying for, but there must be something more. Signore, io non so neanche bene bene quello che ti sto domandando, ma c'è certamente qualcosa di più. I had not even heard about that there was the baptism of the Holy Spirit and fire at the time. Io non sapevo neanche del battesimo nello Spirito Santo all'epoca. But it is for every single believer that follows Jesus. Che è per tutti coloro che credono e che seguono Gesù. And you need that power. E tu, noi abbiamo bisogno di quella you potenza. Need that fire. Abbiamo bisogno di quel fuoco. And you need that supernatural love that God wants to put inside of your heart. Abbiamo bisogno di quell'amore sovrannaturale che Dio vuole mettere nel cuore di ognuno di noi. It is a spirit of power. Ed è uno spirito di potenza. Signs, wonders, miracles. Di segni, prodigi e miracoli. And it is the Holy Spirit. E questo spirito è lo Spirito Santo. Walking right with God in holiness and purity. Che ci fa camminare allineandoci nella volontà di Dio in purezza. It is a spirit of love. Ed è uno spirito d'amore. Supernatural love. Un amore sovrannaturale. That make you able to love people that is not possible in the natural to love. Che ti dà la capacità di amare delle persone che naturalmente sarebbe impossibile amare. A supernatural God-given capacity to forgive people that is not possible to forgive. Una capacità sovrannaturale divina che ti dà la capacità di perdonare because quello God che is naturalmente with you. Non faresti. And it is a spirit of a sound mind. Ed è uno spirito di autocontrollo. Supernatural thinking. Che ci dà un modo di pensare divino, sovrannaturale. Ideas, thoughts, things that the Holy Spirit will give you as a vision on your inside. Pensieri e visioni che lo Spirito Santo farà nascere nel tuo cuore. That he will bring forth also in the natural. E che lui poi porterà e renderà visibili anche nella sfera naturale. It's like it's just too good to be true, isn't it? È come se veramente è troppo bello per essere it's like, vero. Come on, somebody, is this for real? Cioè, ma stiamo parlando di una cosa vera? I'll get to experience like miracles and stuff. Cioè, noi possiamo sperimentare miracoli e cose di questo genere. Will he fill me like with a love that is just like beyond my wildest imagination? Quando lui mi riempie wow. del suo amore che va oltre ogni immaginazione che posso avere, cioè è fantastico. Could it even be that he has a supernatural business idea? Even is God interested in that? Può essere che Dio abbia per me anche per esempio degli affari sovrannaturali, cioè lui è interessato anche a questo. I believe there are people that came here this morning that God wants to give you a business idea supernaturally. Io proprio credo che Dio ad alcuni di noi voglia dare dei pensieri legati alla sfera lavorativa che sono sovrannaturali. God will give you thoughts that you will become an influencer in society. Dio vi darà dei pensieri che ti renderanno influente all'interno della società. Because we're not just called to be the tail and the small part, we are called to be the head and to be leaders. Perché noi non siamo chiamati ad essere la coda e l'ultima ruota del carro, ma siamo chiamati ad essere influenti e leader nella società. And God, he wants to baptize you in the Holy Spirit and in fire. Ed è per questo che Dio ci vuole battezzare nello Spirito Santo. Can I have the worship team please to come and help me out a bit? Possiamo avere il team qui? Wonderful. The last thing that I want to share as the worship team makes ready here. L'ultima cosa che voglio condividere mentre aspettiamo il team della lode. Is that there are many of us that are here already. È che ci sono molti di noi qui that have already experienced the baptism of the Holy Spirit and to receive the Holy Spirit. Che hanno già ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e hanno sperimentato lo Spirito Santo. And I remember I was in a meeting. E mi ricordo ero in una riunione. I was in a meeting and I was going to be prayed for. E qualcuno stava per pregare per me. By some of the most famous ministers in the world. E questo qualcuno era uno dei ministri più famosi al mondo. I was so excited. E quindi ero così, insomma, entusiasta di Reinhard Bonnke was going to lay hands on me and pray for me. I was so excited. Reinhard Bonnke stava proprio per pregare per me. Todd White and Daniel Colenda, they were all there. They were going to lay hands on me and pray for me. I was so excited. Todd White e tutti questi ministri molto conosciuti e influenti stavano per pregare per me. And I was thinking, Lord, I'm ready. E quindi pensavo, Signore, sono pronto. If you want to just, you know, blast me through the air or something and give me visions and everything, I'm ready. I'm here, Lord. Se tu adesso vuoi farmi volare, darmi delle visioni, io sono pronta a tutto. And every one after the other, when they were being prayed for, they all fell to the ground. E quindi ero lì e vedevo che tutte le persone che ricevevano preghiera, diciamo, cadevano. I was getting ready. They all fell under the power of God. Grazie alla potenza dello Spirito, insomma, vedevo questi pastori che cadevano, quindi si stavano avvicinando a me. Sono proprio pronto. And then all of these famous ministers prayed for me. E quindi tutti questi ministri hanno incominciato a pregare per me. But it seemed like I was the only person that kind of did not fall or did not experience anything very special. Ma quello che è successo è che io sembrava essere l'unico a non cadere, a non sentire niente di tutto questo sovrannaturale. So I went back and I sat down in my seat. E quindi anche un po' deluso me ne sono andato al posto. Like, okay, Lord, I'm not disappointed. E ho detto, vabbè, Signore, non è che sono proprio deluso. But it would have been nice with, you know, flying a little bit at least or something. Però I don't know. Sarebbe stato comunque bello, diciamo, cadere oppure prendere il volo come volevi tu. But then the Holy Spirit, I sensed the Holy Spirit speaking on the inside, whispering. Poi ad un certo punto ho sentito lo Spirito Santo che mi sussurrava qualcosa. Give. Dai. And it shall be given to you. Dai e ti sarà dato. Wow. Give and it shall be given to you. Dai e ti sarà dato. And I was made like the, it's almost like the Holy Spirit showed me the person sitting next to me. Ed è come se proprio lo Spirito Santo in quel momento mi ha fatto vedere, mi ha fatto vedere chi stava accanto a me. And I was like thinking, now I'm going to pray for this person exactly all the things that I actually want the Holy Spirit to do for me. E ho pensato, ok, allora io adesso pregherò per questa persona. So I prayed tutto very quello che io volevo che sarebbe successo. I prayed like, God, meet this man and come with your power and fill him. And e quindi ho cominciato, Dio, riempilo del tuo spirito e riempi il suo cuore e manifestati. And this guy started to like shake and shout very loud in tongues and ended up on the floor. E questo uomo ha incominciato anche a tremare, a gridare e poi a parlare in lingue e poi è caduto anche lui per terra. And I was sitting there, I didn't feel so much, but I was sitting there and like, That was actually a bit more cool than just me experiencing something. E io ho pensato davanti a questo, ho detto, ok, questo è quasi più bello che sia successo a lui che a me, ma attraverso di me. To be used by God. Perché è bellissimo essere usati da Dio. Che gioia. What a privilege. Che privilegio. God can use us for His glory. Che Dio può usare ognuno di noi per la sua gloria. Oh, what a privilege. Quale grande what a privilegio. Privilege that we can be carriers of the Holy Spirit and His presence. Che privilegio che noi possiamo trasportare dentro di noi la presenza dello Spirito Santo. That everywhere we go, the Holy Spirit is there. Che dovunque andiamo sappiamo che lo Spirito Santo è lì perché è in noi. And if you are available in your heart. E se tu hai il cuore aperto. Anointing is not a tank that you carry on your back. L'unzione non è tipo uno zaino che ti porti dietro. That can be filled and can be emptied. Che può essere riempito e può essere svuotato. It is like Reinhard Bonnke said, it's more like a tube. Ma è più come un tubo. And like the less that is inside, the more of God's glory can flow through you. E che quanto più pulito è questo tubo, più la presenza di Dio e la potenza di Dio può fluire. The more you are available to Him, the more He can work through you. Più aperto e disposto sei nei confronti dello Spirito Hallelujah. Santo, let's più stand lui to our feet, church. Ti può servire di te. Perché non ci alziamo? We thank you, Jesus, that you are here this morning. E ti ringraziamo, Gesù, che sei qui questa mattina. Just want to thank you, Holy Spirit, that you are here right now with your presence. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché sei qui presente. Just want to thank you, Holy Spirit, that you are here and you're ready to fall in this place. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché sei qui e sei pronto a riempire e a scendere in questo luogo. Just thank you, Holy Spirit, that you are ready to come here with dreams and visions to those who have already received you. Grazie, Spirito Santo, perché tu sei pronto a dispensare visioni e sogni su coloro che già ti hanno ricevuto. I thank you, Holy Spirit, that you are here ready with your fire. Grazie Spirito Santo perché sei qui pronto con il tuo fuoco. Oh, that we can be your witnesses, Jesus. Così che possiamo essere tuoi testimoni, Gesù. Oh, we thank you, Holy Spirit, that you are here ready to equip us. Ti ringraziamo Spirito Santo perché sei pronto qui ad equipaggiarci. That we can walk with you with your fire. Che possiamo camminare con te riempiti del tuo fuoco. Thank you, Holy Spirit, that you are here right now. Grazie Spirito Santo perché tu sei qui oggi. Hallelujah. Why don't we just raise our hands towards heaven? Perché non alziamo le nostre mani and I want al you just, cielo. If you are here and you want to receive the Holy Spirit, now is the time. E se tu sei qui e vuoi ricevere lo Spirito Santo, the Holy questo Spirit è il tuo is tempo. Here. Perché lo Spirito Santo the Holy è Spirit qui is here. E lui è qui. Just receive him. E ricevilo. Receive the Holy Spirit. Ricevi receive the Holy Spirit. Santo. Right now, by faith. In questo momento, by per faith. Fede. Receive the Holy Spirit. Puoi ricevere lo Spirito by faith, Santo. In Jesus' per name. Fede nel nome di Gesù. Let us worship and let us sing in new tongues. E incominciamo ad adorare in nome di Gesù. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, will you just fall right now? Spirito Santo, scendi in questo momento. Let's just pray out in new tongues. Oh, Holy Spirit, will you just fall in this place? And you are carrying unforgiveness in your heart. E c'è della mancanza di perdono nel tuo cuore. You've been carrying something against someone else. Ed è da tempo che hai questa mancanza di perdono nei confronti di qualcun altro. Now is the time to let go. E adesso è il tempo di lasciare andare. Now is the time of freedom. Adesso è il tempo di essere liberato da questo. You have to forgive. Tu devi so if that is you, perdonare. Why don't you just start and pray for that person that you have something against? Se questo sei tu, adesso vorrei che tu right incominciassi now, a pregare start per quella to pray persona a blessing over that person that you have, or those people that you have something against. Per la quale hai questa mancanza di perdono. Just speak out che blessings over them. Incomincia a pregare e a confessare le verità di Dio su di loro. And maybe there are someone that even need to take action on that later on today and ask someone for forgiveness even. Probabilmente c'è qualcuno che anche dopo, quando l'incontro sarà finito, deve andare a chi ha bisogno di perdonare e fare qualcosa di pratico a riguardo. Because this bitterness can so easily come in and it's like drinking deadly poison for yourself. Perché l'amarezza può così facilmente prendere tutto il tuo cuore ed è come bere dei sorsi di veleno. So right now we just thank you, Lord, that you have forgiven us. E quindi Gesù adesso ti ringraziamo perché tu ci hai perdonato. And we thank you, Lord, that we can forgive everyone else. E ti ringraziamo Signore perché noi possiamo anche perdonare. And I want to give one last invitation here as well. E voglio anche fare un ultimo invito. Is there anyone here that have come in here and you don't have peace with God yet? C'è qualcuno che è venuto qui questa mattina e non sei in pace con Dio? That you came in this door this morning and you don't know if you have peace with God. Sei venuto, hai varcato quella porta e non sai se il tuo cuore è in pace, è a posto con Dio. That if your life would be over today, you wouldn't know if you would go to heaven or to hell. Non sai se tu dovessi morire oggi, non sai se poi andresti in paradiso o all'inferno. If things I've been sharing about today is just some of the good things that God has for you when you give your life to Jesus. E tutto quello che io ho descritto questa mattina sono delle cose che Dio ha in serbo anche per te nel momento in cui tu l'accetti nella tua vita. When he died on the cross, he died for all of your sins. Quando lui è morto su quella croce, lui è morto all per of your sins. Tutti every i tuoi single peccati. One of them, no matter how bad it has been. Ogni singolo peccato non ha importanza quanto grave sia il tuo peccato. No matter how many bad things you have done. Non ha importanza quante sono le cose che tu hai fatto di male, di brutto. No matter how much shame you carry. Non ha importanza quanta vergogna tu provi. Jesus paid the price for it on the cross. Gesù ha pagato il prezzo per Hallelujah. Te sulla croce. Why don't we just bow our heads and just close our eyes? Perché adesso non chiudiamo il nostro capo, non chiudiamo i nostri occhi. I just want to ask you, who is it that is here today and you would say, I want to know Jesus? E voglio chiedere se c'è qualcuno oggi che dice, io voglio Gesù. I need Jesus in my life. Io ho bisogno di Gesù nella mia vita. On the count of three. Al mio tre. I want you to raise up your hand if that is you. Io vorrei che se sei tu che vuoi ricevere Gesù nella tua vita. I want you to raise up your hand on the count of three. Voglio che alzi la mano al mio tre. Because I want you to know from this day on that you are saved, that you know Jesus. Perché voglio che tu sia sicuro da questo giorno in poi. So one. Che tu conosci Gesù, quindi uno. God is calling on your heart this morning. Dio sta chiamando il tuo cuore questa mattina. Make your hearts ready to receive Jesus. Prepara il tuo cuore a ricevere Gesù. Two. Due. Make your hearts ready to receive His forgiveness. Prepara il tuo cuore a ricevere il perdono di to Dio. To turn away from all of your sins. Di pentirti e ravvederti da ogni and tuo to start peccato. To follow Him. E di incominciare a seguire Gesù. Three. Tre. Just raise your hand up if that is you, if you want to know Jesus. Se sei tu che vuoi conoscere Wherever Gesù, are, just che as vuoi a sign accettarlo, from you alza to God, la tua mano. And you want to know Jesus. Se sei tu che vuoi God accettare bless Gesù, you. Alza other la more tua people mano. As well. God bless you. Just high up, lift it high up. Other alza, more people alza as well. In alto high la tua up. Mano, così che io possa vederla. And then we're going to pray together. Perché voglio pregare per te. Are there more people as well? Ci sono più persone. Hallelujah. God is calling on you. God bless you. I see your hands. Dio ti sta chiamando. Vedo la Hallelujah. Tua mano. Hallelujah. What we're going to do is that we're going to pray together with you right now. Quello che faremo è che adesso pregheremo per te in questo momento. And we do it simply that you pray in Italian and then you repeat afterwards in Italian. E quindi adesso pregheremo una preghiera e vorrei che voi ripeteste le parole che diciamo. I will pray first in English and then Italian and then you repeat in your language. Quindi lui pregherà in inglese, io ripeterò la sua preghiera in italiano e dopo di me potete ripeterla anche voi e lo facciamo tutti insieme. You just pray out from your heart directly to God. E lo preghiamo dal profondo del nostro cuore. Are you ready? Pronti? Hallelujah. Jesus. Gesù. Thank you so much that you love me. Grazie per il tuo amore. Thank you so much that you gave yourself for me. Grazie perché hai dato te stesso per me. Thank you that you are alive. Grazie perché sei vivo. I invite you to come into my life. Io ti invito a venire nella mia vita. And from this day on. E da oggi in poi. I want to follow you and to know you. Voglio conoscerti e seguirti. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. God bless you. Che Dio vi benedica.